Brasil. La nostalgia è del Brasil. Brasil sta lì. L'Italia qui. Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Al mare va marotta, mangia il pesce, beve il vino e putarlotta. Quando passa qualche gnocca, io sa drista sa mi sconda col pisotta. Ma tizza, tizza, ciao! Jackson Martinez è arrivato alla copertura. Ancora calma! Ciao a tutti, Franco Piantarino, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Allora, immaginatevi questa scena. Ralph, noto DJ, mi dicono che sta suonando ai piatti, arriva Serse Cosmi, canottiera rossa dei Miami Heat numero 6, LeBron James, almeno in questo caso siamo sicuri, si dice James, e non Jaime. Lo sposta, vai tu, spostati ragazzo, che qui faccio io. Serse Cosmi, canotta rossa, tatuaggioni in bella evidenza, ai piatti. Che numero! E meno male che, insomma, dopo due giorni di pausa, il delirio estivo era già partito. Finalmente torniamo ai mondiali e ci torniamo alla grande dalle 18 di questa sera con un super derby europeo Germania-Francia, che più passano le ore e meno mi sento di... così, di pronosticare senza dubbio i tedeschi, perché secondo me i francesi romperanno le scatole parecchio alla Germania, tra l'altro influenzata, tra l'altro con qualche malumore, tra l'altro con una cena non bellissima. Intanto abbiamo scoperto che il mondiale italiano lo ha perso senza dubbio Silvio Berlusconi, che ha detto: avevo già venduto a un club inglese che è l'Arsenal Balotelli per 35 milioni e adesso chi se lo piglia più sto ragazzo? Sto ragazzo che adesso si ritrova contro la volontà evidentemente presidenziale, si ritrova di nuovo in maglia Milan, svalutato, spernacchiato, magari vagamente demotivato, come chi sa di non essere più così tanto desiderato. Sappiamo invece che il mondiale italiano lo ha vinto Cesare Prandelli, che in 10 giorni si è visto lo stipendio triplicato o giù di lì, passando dall'1,7 che gli allungava la nazionale ai 5 milioni che gli verserà sul conto corrente il Galatasaray, che non è la nazionale italiana, ma è pur sempre e comunque un simbolo del suo paese. Auguriamo a Prandelli di essersi fatto una corazza pesante, perché anche da quelle parti le pressioni saranno tantissime. Tutti convocati. Si fa tanto parlare di Balotelli, però fa un po' una testa dura, ma io sono convinto che sia un grandissimo campione. Ma no, io se ho letto bene, perché io ho letto, Barbara ha detto nessuno è incedibile, è diverso, è sottile la differenza, ma c'è una differenza. Quindi io sostengo che Balotelli abbia ancora tanto, ma tanto da esprimere, e che probabilmente maturando un po' possa diventare il grande campione che tutti noi ci aspettiamo lui sia. Sì, tutti noi, dice per Silvio Berlusconi, magari non il papà, che ha detto: avevo già imbarcato 35 milioni in tasca e via, via Balotelli. Io penso che se non adesso, magari in inverno, alla finestra invernale, succederà. Ho come questa impressione. Balotelli, che intanto è tornato a farsi vedere sui social network con un video in cui ringrazia i suoi tanti followers. 7.5 million followers, that's a lot. Thank you everybody. I bet you can be even more than that. See you. Vabbè, filmato, girato mentre andava in macchina, ringrazio i 7,5 milioni di followers che ha sui suoi social network. Pace a lui, insomma. Franco Ordine, al giornale, buongiorno. Eccomi qua, buongiorno, buon pomeriggio. Ciao Ciccio. Senti, stavo dicendo, se concordi, che il mondiale abbiamo scoperto l'ha perso Berlusconi, il mondiale italiano, mentre l'ha vinto Prandelli. Sì, sì, anche se mi risulta che Berlusconi abbia chiarito che si trattava di una battuta, diciamo, che è stata accolta come un fatto, come invece un rimpianto, addirittura un rimorso. E, mentre invece ho l'impressione che davvero il mondiale l'abbia già vinto Prandelli, che devo dire che come dire, ho ricostruito soltanto adesso quello che è successo nelle settimane passate con Mancini, e cioè questi del Galatasaray hanno fatto credere a Mancini che non avevano più una lira da spendere sul mercato. Sì. Per indurlo, credo, alla rescissione del contratto. Sì. Così hanno fatto, per poi andarsi a prendere Prandelli, facendogli un bel contratto ricco, e credo che avranno anche da investire sul mercato se hanno diciamo concluso la trattativa con Prandelli stesso. Senti, maliziosi ovviamente adesso dicono: ma possibile che in due giorni questo lascia la nazionale e trova un altro club? Possibile che non ci fosse stato qualcosa prima? Secondo me qualcosa prima, almeno a livello di sondaggio, indirettamente c'è stato. Questo può far capire, può far pensare che, diciamo, le dimissioni immediate a stretto giro di eliminazione siano anche, come dire, abbiano anche il senso di una liberazione dai vincoli per potersi sentire libero di ripartire. Sì, certo che rende onore a Prandelli il fatto che sarebbe stato disposto a allenare la nazionale, cioè il suo valore sul mercato degli allenatori è questo, 4,5 milioni/5, si deprezzava non poco, cioè accettava una infire, una decurtazione non da poco del suo valore di mercato, no? Sì, vabbè, questo poi è un discorso che vale fino a un certo punto, nel senso che poi bisogna vedere cosa vuoi fare nella vita e soprattutto che tipo di risultato avresti avuto. Avesse fatto strada, sicuramente sarebbe stato più contento anche lui di rimanere alla guida nazionale, avrebbe investito nel prossimo europeo, insomma... sarebbe stata tutta un'altra storia da scrivere e anche da leggere. Certo, ma Balotelli, al di là delle battute presidenziali, che fine fa? Che fine fa? Che se non c'è l'acquirente che si presenta e bussa alla porta, certo, a una cifra consistente che consente al Milan, che in questo momento ce l'ha in bilancio registrato a 17,5 milioni, sì, di fare un po' di plusvalenza, Balotelli rimane. Certo, malgrado, cioè a dispetto dei Santi, in questo caso, San Silvio. A dispetto dei Santi, voglio dire, a dispetto degli, diciamo, anche delle sue convinzioni e di quelle di Raiola, che era convinto ed è convinto di trovare un acquirente da qui al, sì, prossimo metà agosto. Toglimi una curiosità, ma come può il Milan fare la corsa con la Juventus per i turbe? È una cosa che non riesco a capire. No, ma infatti non riesci a capirla, perché sei una persona intelligente e devi rifiutarti di immaginare e di pensare che il Milan o persino la Juve possano concludere l'operazione ai turbi alle cifre e alle dimensioni finanziarie che sono sui giornali in questi giorni. Non c'è nessun club italiano che sia in grado di poter comprare i turbi a quei soldi, neanche la Juventus. Intanto è cominciata la pubblica battaglia con gli stracci che volano tra Milan e Seedorf. per ora, guarda, per ora balletto guarda, a distanza, ma io me ne aspetto tante da questo, su questo fronte. Ma la cosa che non capisco è questa, per quale motivo si debba lamentare del fatto che ci sono giocatori che a ripetizione offrono tutti, ma non soltanto quelli che diciamo non giocavano, come potrebbe essere nel caso di Poli, sì, ma anche quelli che giocavano, e cioè Montolivo, anche quelli che giocavano da titolare, hanno tutti ripetuto solo una cosa, e cioè che era impossibile andare d'accordo con lui e vivere con lui una diciamo serena attività professionale. Quindi se questo cioè il problema è, non se la devono prendere con i giocatori e con il Milan, se la devono prendere, devono chiedere spiegazioni a Sedor. Un'ultima cosa, Franco, quale sarà la posizione del Milan nella corsa alla presidenza federale? Valgono le parole di Lady Barbara o valgono le così intenzioni di Gagliani, o non vale niente di tutto questo? Ma guarda, se le parole di Barbara sono, diciamo, tra virgolette, parole in libertà, perché sì, si riferiscono a, diciamo, alla generazione dei quarantenni. Sì. Non credo fosse nemmeno, come qualcuno l'ha interpretata, una diciamo un sostegno ad Albertini, elettorale nei confronti di Albertini. Uh-huh. Il movimento di Gagliani mi sembra molto, molto semplice, legato diciamo alle vicende della Lega, e credo che la Lega appoggi Tavecchio. Grazie, Lucera ti saluta, Lucera ti saluta e ti aspetta presto, mi scrive un ascoltatore, si chiama Giovanni Milan. Okay. Digli a Lucera che nel cuore mi sta, essendo la patria di mia madre. Ecco, gliel'hai detto tu, benissimo, grazie Ciccio. Saluti. Ciao, un abbraccio, grazie Franco Ordine. 800 24 00 24 è il numero verde, stiamo aspettando, e non muoio dalla voglia di vedere queste due partite di stasera, e vi dico subito che io sto con Felipao Scolari, che ce l'abbiamo l'audio di Scolari, che ha detto ai giornalisti, alcuni giornalisti che sono miei amici, quindi li ricevo in sede privata, fatti miei, e con loro parlo di tutto. Gli altri invece mi criticano, bene, vadano all'inferno. Así como eles podem, tem muita gente que não gosta, eu tenho, e vou fazer isso como fazia em 2002 lá no Japão e na Coreia. Pelo amor de Deus, se eu não puder fazer as coisas que eu gosto de fazer, e se eu tenho que ser pautado para escolher A ou B, não vou fazer, vou fazer do meu jeito. Gostou, gostou, não gostou, pronto, vai para o inferno. Dunque, Felipao Scolari, in soldoni, non posso generare a parlare con tutti, ci sono alcuni giornalisti dei quali sono più amico e che mi piacciono di più, e li ho invitati come facevo nel 2002 in Giappone, quando mi sedevo con 7-8 di loro e parlavamo. A chi non è stato invitato e se l'è presa, dico, un motivo ci sarà, forse non volevo parlare con loro. Ma non può esistere gelosia fra gli uomini, per l'amor di Dio, sarebbe una cosa da pazzi. Quanto le giornaliste donne, attenzione, sabato sono invitate, si siederanno insieme a me e vedremo le cose anche dal punto di vista femminile, dice Felipao Scolari. L'ho sempre fatto, continuerò a fare a modo mio, e se non vi piace, andate all'inferno. Allora, a me, al di là di queste discriminazioni, a me piace il comportamento di Scolari. Ieri se ne parlava, probabilmente può aver sbagliato delle scelte, almeno secondo una parte dell'opinione pubblica brasiliana, può avere la testa dura, quello che volete, però i suoi li difende, ha fatto delle scelte precise e andrà fino in fondo con quelle scelte, difendendo quelle scelte e quei giocatori. State sicuri che quei giocatori per Felipao Scolari daranno tutto. Cristiano da Bologna, Matteo provincia di Milano, cominciamo così, 800 24 00 24, numero verde. Buongiorno Cristiano. Buongiorno Genta. Come va? Ho scoperto che abbiamo un'altra passione in comune oltre il calcio, che ti piace il Pearl Jam. Sì, moltissimo. Moltissimo. Se ti piace anche la ciccia baffetta, diventiamo amicissimi. Lascia sta. Altre passioni. La domanda che volevo fare, in effetti erano due. Uno è riguardo al mondiale, se non trovi che sì, bellissimo mondiale, belle partite, almeno la maggior parte, però non è che manchi proprio tipo il fuori classe o il fuori classe che magari hanno caratterizzato altre edizioni, quello che magari sarebbe dovuto essere Messi o è Messi, sì, è Messi. Però Adesso sì. Cioè, io sono sempre stato abbastanza critico nei confronti di Messi. No, a me piaceva morire, però. No, anche a me, ma sono stato abbastanza critico nei confronti di Messi nelle passate edizioni mondiali della Coppa America, eccetera, eccetera. Perché? Perché non si perdeva in quel contesto, in un contesto difficile. Non riusciva, come faceva quello cui è stato più volte e da molti anni accostato, a prendersi la squadra sulle spalle, ad essere il leader anche tecnico emotivo di quel gruppo. Adesso il leader emotivo Messi non lo sarà mai, certamente adesso è super leader tecnico di quel gruppo, e dai, qualche giocatorino lo stiamo vedendo. Messi e quell'altro che gioca nel Brasile, che sta giocando a un livello diverso rispetto a quello del Barcellona, e quello che giocherà contro di lui, mi riferisco a Neymar e mi riferisco a James o Jaime, il colombiano, che sta brillando come non mai. Non dimentichiamo Robben, non dimentichiamo Müller, insomma qualche stella la stiamo vedendo, e a me questo mondiale piace molto. Matteo, provincia di Milano. Ciao, grazie per la convocazione. Abbassami la radio, che se no non sento niente, grazie. Volevo fare una domanda, una considerazione. Mm-hmm. Ma Seedorf è stato trattato malissimo dalla società. Sì. E su questo non ci piove. Però lui come si è comportato con Tassotti? Cioè, come si fa a trattare male Tassotti permettendosi di dire che non deve alzarsi dalla panchina? Sì. Ma Seedorf è presuntuoso, è uno così, lì lo conoscevano tutti, cioè, ma lo conoscono da 10 anni, quindi potevano anche aspettarsi. Non prenderlo, certo, oppure aspettarsi che sarebbe comportato in quella maniera. Poi? E poi una domanda: quante possibilità ci sono che arrivi Zaccheroni sulla panchina dell'Italia? Vediamo, secondo me non poche, anche perché sappiamo come Tavecchio sia in pole position per la famosa poltrona di presidente federale, e sappiamo come Tavecchio abbia, insomma, i candidati di Tavecchio siano, al di là dei quattrini, siano Zaccheroni e Guidolin. Quindi l'11 agosto scopriranno le carte. Allora, a proposito del discorso Seedorf si è, o meglio, la portavoce di Seedorf attraverso la sua portavoce si è lamentato del fatto, ma qui parlano tutti contro di me, anche Montolivo adesso si mette a parlare, per dire cosa? No, cosa non ha funzionato? Diciamo che non si è creata quella sintonia giusta che ti permette di lavorare bene. Credo che si è mancato questo anche con tra società e allenatore. Applausi per lui, pubblicità per noi. Tutti convocati. Pallone ancora verso il centro, salta le tre, Uruguay in vantaggio, ha segnato Godin. Come al solito Godin. Ho l'impressione che davvero il mondiale l'abbia già vinto Prandelli, che devo dire che ho ricostruito soltanto adesso quello che è successo nelle settimane passate con Mancini, e cioè questi del Galatasaray hanno fatto credere a Mancini che non avevano più una lira da spendere sul mercato. Sì. Per indurlo, credo, alla rescissione del contratto. Sì. Così hanno fatto, per poi andarsi a prendere Prandelli facendogli un bel contratto ricco, e credo che avranno anche da investire sul mercato se hanno concluso la trattativa con Prandelli stesso. Allora, vi abbiamo riproposto in leggera differita, per chi non c'era prima, il pensiero di Franco Ordine sul caso Prandelli. Sono anche curioso di sentire il vostro di pensiero, 800240024. Non vedo l'ora di collegarmi con Pardo, cosa che accadrà dopo il GR delle 15, come abitudine durante questi mondiali, perché ieri era promesso che ci avrebbe dato i suoi pronostici precisi sui quarti di finale. Noi intanto possiamo portarci avanti, se volete, 800240024 è il numero verde. Quanto a Cesare Prandelli, allora, c'è un ascoltatore che scrive: è sempre da malpensanti se ci chiediamo se il mondiale è andato come è andato, perché Prandelli pensava ai turchi. Ma allora, è chiaro che Prandelli non pensava ai turchi, altrimenti non avrebbe firmato il contratto il giorno prima di salire sull'aereo per il Brasile, avrebbe preso tempo, tergiversato, eccetera, eccetera, eccetera. Certo è che insomma, io sono portato a pensare come Franco Ordine, una telefonata da Prandelli comunque l'avranno fatta, Prandelli avrà risposto, no, firmo contratto, sto con la federazione, eccetera, eccetera, eccetera. Poi sapeva che c'era questa offerta, i contatti sono stati rapidamente riagganciati. Paolo da Roma, buongiorno. Buongiorno, finalmente ci riesco. Finalmente, grazie. Dopo 6-7 mesi. Grazie per la pazienza. Mi fa un suo pronostico sui quarti di finale? Il pronostico sui quarti di finale è Germania? Colombia. Sì, attenzione. D'altra parte, Belgio-Argentina. E Olanda-Costa Rica si gioca o non si gioca nemmeno? Perché non si gioca? No, voglio dire, è scontatissima oppure no? No. Io mi gioco la Costa Rica. Veramente? Sì, me la sono già giocata. Grande, io non ci credo, ma comunque, no. Comunque io di solito mi sbaglio, quindi... Non mi sembra che stanno giocando, no, lei si sbaglia molto poco. Non stanno giocando bene, è un mondiale particolare, queste squadre africane... hanno una carica, una voglia, Costa Rica sudamericana, ma comunque sì, no, volevo giocando... dire non europee, sì, hanno veramente, hanno qualcosa di più dentro. Bravo, è la mia stessa impressione, l'ho ripetuta voglia, anche più volte. Presidente di una società di calcio del settore giovanile, sì. Molto amico ero di Candido Cannavò, sì. E quindi seguo le cose con una certa attenzione, devo dire. Che oggi, quando gli equilibri sono così, conta molto quello che hai dentro. Senta, posso farne una domanda io? Poi mi dice quello che vuole. A proposito di presidente di una squadra del settore giovanile, eccetera, non so se ha sentito quella che è la mia posizione sulla questione giovani. Qui c'è il solito ritornello: devono giocare i giovani italiani in Serie A, eccetera, eccetera, eccetera. Io dico che al massimo livello professionistico, questo vale per tutti gli sport, non ci deve essere protezionismo, quindi se sono bravi giocano, se a parità di valore e di mercato c'è un altro più bravo, allora gioca un altro, non importa da dove arrivi, e i nostri giovani giocatori italiani, se vogliono diventare giocatori, possono fare come quelli della Costa Rica, dell'Olanda, del Belgio, del Brasile, della Colombia, cioè andare a giocare da un'altra parte. Il mondo. Io non sono d'accordo, sono molto d'accordo, perché sembra che uno basta che è giovane, adesso dobbiamo mettere i giovani. Conta il campo, anche perché nel calcio come nella vita contano i risultati. Perfetto, siamo d'accordo su quasi tutto. C'è qualcosa su cui non siamo d'accordo? Se no, adesso vediamo. No, ma io sono uno scomodo, quindi non vado avanti per piaggeria. Nell'autografo che mi fece Candido mi scrisse a Paolo che difende il vero sport. Grande. Voleva dire qualcos'altro? Sì, volevo dirle che ho letto l'altro giorno, stavo giù alla mia società sportiva, mi sono ritrovato dei ritagli sui colori dello sport, dopo i mondiali precedenti. E ho letto le stesse cose che leggo oggi. Ogni volta ripetiamo le stesse cose, ma quando il calcio è in mano a gente come Bronzetti e Raiola, ma cosa ci vogliamo aspettare? Io ho un volo dietro Materrese e Bronzetti che parlavano. Guardi, mi astengo dai commenti. Quindi come pensiamo di avere prospettive quando in mano a questi che non sanno nemmeno se la forchetta si tiene con la destra o con la sinistra? Beh, allora mettiamoci per par condicio. Io sono parzialmente d'accordo, però per par condicio metterei i due che lei ha citato, cioè Bronzetti, Raiola, e se vuole aggiungere qualcun altro faccia pure. Però metterei anche l'altro interlocutore, quello con cui Bronzetti stava parlando, cioè chi guida il pallone. Io continuo a pensare che, e mi sono pubblicamente schierato, non con Barbara Berlusconi ma con l'idea che ha lanciato, perché credo che se si vuole cambiare davvero qualcosa, queste logiche non siano più funzionali, o meglio non siano funzionali a un cambiamento. E mi riferisco ovviamente alla vicenda Presidenza federale e coloro che quel consesso che gestisce il calcio. 800 24 00 24, la ringrazio molto Paolo, torna a trovarmi presto quando vuole. Alessandro, Genova, buongiorno. Buongiorno, ascolti, volevo dire una cosa, se è possibile. Sì. No, sicuramente non vincerò la maglietta per la simpatia, però le posso fare due critiche? Sì, anche tre. Allora, una critica la vorrei fare a lei, a Pardo, perché? Sì. Perché nelle vostre trasmissioni, ma specialmente anche quelle di Mediaset, parlate sempre di 3-4 squadre, Juventus, Roma, Milan, Inter, le altre 14 squadre, ma io dico la Sampdoria, ma anche il Bologna, il Genoa, queste squadre che comunque sono città grosse, ne parlate un 5%, non mi sembra giusto, perché so che loro hanno tanti tifosi, muovono un sacco di capitali, così, però il 90% impostare sempre le trasmissioni comunque su queste tre squadre, adesso c'è il calciomercato e si parla sempre della Juve, del Milan, dell'Inter, quando poi sono squadre medie dove non si dice mai, ma io a Sampdoria sinceramente non so niente perché non ne parla nessuno. Alessandro, io accetto, no, accetto la critica, però faccio finisco. Poi finisce naturalmente, accetto la critica, però faccio notare come nel corso di questa avventura di tutti i convocati eccetera abbiamo avuto ospiti, rappresentanti, allenatori, giocatori, presidenti di tutte le squadre, salvo che di quelle tre che le ha citato, cioè L'altra volta la Sampdoria ha cambiato il presidente, lei ha detto in diretta la Sampdoria ha cambiato il presidente, benissimo, allora il mondiale domani, cioè, mi sembrava una notizia secondo me importante, cioè molto importante, perché comunque è una società importante, che Igarrone dopo tanti anni è stato in Lega, è stato vicepresidente della Lega, cioè, mi sembrava una cosa importante, in 5 minuti è stata liquidata, cioè, secondo me, ma non che dovevate farci una trasmissione, però ma non soltanto la Sampdoria, queste squadre, anche il Parma, cioè, queste squadre che comunque hanno città, sono importanti. Poi scusate, soltanto una piccola cosa. E poi un'altra cosa che volevo dire era che l'altra volta io le avevo telefonato e le avevo detto di Cassano, e gli avevo detto che è un giocatore che secondo me lo spogliatore non lo voleva e che comunque aveva dei problemi. Lei in 2 secondi mi ha detto no, è una cosa superata. Secondo me non era superata, perché comunque il fatto che proprio lui era stato messo fuori da Prandelli, che lui stesso aveva detto che era lo 0,00% era perché lo spogliatore non lo voleva, al di là che poi comunque non era non venisse da grandi stagioni. E poi comunque, quindi è stato Prandelli a imporlo allo spogliatoio, secondo lei, e ha fatto un errore, è andata così? Certo, bravissimo, perché lo spogliatoio non lo voleva assolutamente, è un giocatore che si pone male, sempre è stato così. E poi un'ultima cosa, poi quello che lascio perdere, come nome io farei Roberto Baggio, invece un giocatore che secondo me potrebbe, giovane, un giocatore che secondo me anche come selezionatore è stimato, una persona seria, uno che di calcio ne capisce. E l'ultima cosa, secondo me Balotelli, ma anche lo stesso Cassano sono giocatori sopravvalutati, ma anche lo stesso Cassano, che tecnicamente ha queste, perché se lui è stato una promessa fuori classe, ma veramente i campioni degli 80, i Baggio, i Mancini, i Gulli, quei giocatori lì, ma cioè, cosa sono? Cioè, erano non dei fenomeni, di più. Un altro livello, perché io a Genova ho visto giocare Gulli il primo anno che è venuto, non il secondo anno. L'ho visto giocare a Milano, Gulli, Van Basten, erano, insomma, non mi piace cadere nella nostalgia, era anche uno sport diverso, però stiamo parlando di giocatori che si sono consacrati a totalmente un altro livello. Questi invece, quelli che abbiamo qui, vediamo se riusciranno a consacrarsi. Alessandro, grazie. Adesso devo far sentire il traffico. Intanto c'è notizia ufficiale di oggi: nuovo designatore arbitrale è Domenico Messina. Nick, il presidente dell'AIA, lo ha comunicato, e quindi in Serie A designerà Domenico Messina. Farina e Rosetti sono stati nominati rispettivamente per la Serie B e la Lega Pro. Amen. Tutti convocati. Allora, continuiamo con gli ascoltatori. 800 24 00 24. Davide, provincia di Venezia. Buongiorno. Buongiorno. Vuole fare il pronostico anche lei? Pronostico a parte Germania e Francia, che è un'incognita, secondo me le quattro teste di serie. Le quattro teste di serie, e andiamo sul classico. Le tre teste di serie, a parte punto di domanda Germania. Pronostico classico, sì. Classicissimo. Poi una constatazione sul mondiale italiano. Le spiego perché vorrei la sua opinione. Secondo me manca proprio l'attaccamento a quello che è la nazionale. Evito tutti i vari discorsi su durante il campionato, finti infortuni per andare in nazionale, per preservarsi per il campionato. Le faccio un esempio: la settimana scorsa ero in Croazia. la sera che la Croazia ha giocato contro il Messico perdendo 3-0. Stavo passeggiando per strada, ho sentito la gente cantare dalle finestre l'inno croato, cosa che in Italia non si sente. Sono andato a vedere la partita su uno schermo gigante, il Messico ha vinto 3-0, la gente si è alzata in piedi e ha applaudito, cosa che in Italia non sono usciti, hanno perso, l'unica cosa che sono stati capaci di fare, rimboccarsi di parolacce uno con l'altro. Parolacce nel senso... Sì, no, non lo so, di discussioni, mettiamola discussioni. Così. Discussioni, l'unico che è uscito a testa alta, Montolivo, che si vede ancora in televisione per una pubblicità alla carne in scatola, sì. Ho sentito offendere anche lui. Vabbè, ma noi la viviamo, Davide, purtroppo noi lo viviamo in questa maniera, la viviamo in questo modo tutto nostro, non credo che sia una... così una crisi di vocazione, una crisi di amore nei confronti della nazionale. Il discorso è che, come sappiamo, ad ogni grande evento, ma abbiamo una prova recente con gli europei di 2 anni fa, se la nazionale gioca bene, convince, fa strada, allora l'onda comincia a montare, altrimenti si parte depressi e pieni di pessimismo, con un sacco di critiche, quasi a volerle cercare certe volte, perché ci ha detto bene in alcune occasioni. E poi se la nazionale fa strada, ovviamente ci si continua a scazzare, a litigare, però l'onda cresce, allora poi cominciano a spuntare le bandiere per le strade, ma noi la viviamo in questa maniera, è il nostro modo di, un po' perverso se vogliamo, di vivere non solo la nazionale, ma il calcio intero. Lo stavo leggendo, tra l'altro, questa notizia, ma ve la do dopo, con la FIFA che non vuole il solito Maradona nell'area VIP. Intanto io voglio fare un collegamento con Obraseo, perché laggiù c'è il nostro Gigi Donelli, che è sulla via di Fortaleza, dove, beato lui, si vedrà Brasile-Colombia questa sera. Ciao Gigi. Ciao Carlo, sulla via di Fortaleza sembra sulla via di Damasco, ma qui è decisamente tutto un altro contesto. Sì. Sulla via di Fortaleza, esattamente, dove sono sbarcati i colombiani in queste ore. Come sono? Belli, colorati, felici, allegri, eh? Belli, bellissime le colombiane, colorati, molto su di giri, perché chiaramente gli stessi brasiliani gli dicono: ah, siete più forti, sai, poi adesso ci sono tutti i giochi delle scaramanzie. E sono tantissimi. D'altra parte Fortaleza è più o meno la stessa distanza tra Bogotà e Fortaleza rispetto al sud del Brasile, in questo enorme paese, quindi insomma arrivano in massa. Senti Gigi, che paese stai trovando? Non a caso sulla via per Fortaleza, perché insomma io ho immagini e cartoline del Brasile che mi manda ogni giorno Pardo, e non sono coloratissime, cioè mi sembra che diversi problemi esistano, infrastrutture eccetera. Che Brasile stai trovando tu? Ma sai, i problemi in Brasile, voglio dire, sono come quelli all'Italia, alla decima potenza. Nello stesso tempo trovo un paese bellissimo. Ricordiamo che il Brasile è 8 milioni di chilometri quadrati, quindi qualcosa come 24 volte l'Italia. Sì. In questo momento a sud del paese, per esempio, stanno facendo i conti con inondazioni pesantissime, quindi la situazione è drammatica, per darti. Nel nord del paese, invece, qui nel nord-est, è la fase migliore dell'anno, nel senso che è la fase del turismo e così via. Ecco, un aspetto che ti posso segnalare è che tutti hanno confermato che questo mondiale per adesso sta provocando più danni che benefici al grande business del turismo del nord-est, perché causa prezzi altissimi e preoccupazione per i mondiali, la maggior parte dei brasiliani se ne sta a casa davanti alla televisione. Sì, questo era facile da immaginare, però i problemi sono e rimarranno, come ben sai, di stretta attualità, perché non è finita qui con il mondiale, tra 2 anni si ricomincia con l'Olimpiade, e dunque credo che il Brasile rimarrà, e la situazione brasiliana rimarrà di stretta attualità. Beh, sì, Gigi, dimmi. Sì, quello è vero anche che le Olimpiadi sono tutte concentrate su Rio de Janeiro, quindi molti brasiliani dicono anche che la prova generale, in realtà l'avevano già avuta con la Confederation, no, lo scorso anno. Sì, certo. Adesso i mondiali, poi le Olimpiadi a Rio de Janeiro, insomma, Problemi ce ne sono di varia natura, ma ripeto, anche la bellezza di un paese straordinario dal punto di vista naturalistico e l'ospitalità dei brasiliani, non dimentichiamolo, all'altezza della loro reputazione. Ti sento bello carico, ti invidio da morire in maniera feroce, veramente tu lo sai, e alla fine, per farti un dispetto, prima di salutarti ti chiedo un bel pronostico, anche a te. A me? Cos'è che sappia io? No, non mi interessa, adesso me ti devi molto, esporre. Sono molto confuso adesso, ti devo esporre. Guarda, è veramente dura, perché questi colombiani sono forti, accidenti. Che potrebbero fare la grande sorpresa. Certo, stasera sarebbe clamorosa. Sarebbe dura. Io penso che alla fine se la caverà il Brasile. Pensi e speri anche, perché poi se perde il Brasile devi nuotare nelle lacrime per tornare indietro, tu lo sai. Grazie, esatto. Gigi. Grazie. Sono i braccioli. Grazie, un Gigi. Abbraccio. Ciao, Gigi Donelli. Prima di fermarci un attimo, Pasquale della provincia di Foggia, altro ascoltatore, 800 24 00 24, il numero verde. Genda, eccomi. Buon pomeriggio, chiamo da Gardgano, la vico del Gardgano. Invidio anche lei, dopo Donelli invidio anche lei. Io invece chiamo da Milano, sole 24 ore, eccomi qua, presente, dica. Allora, Genda, volevo parlare un po' sui due quarti molto belli di questa sera. Sì. Del Brasile, che potete fidarvi di questa Colombia, perché se fanno attaccare a Cuadrado, il Brasile si mette molto in difficoltà, perché Cuadrado... E poi volevo parlare un po' sulla partita tra Germania e Francia, un altro bel quarto di finale. E volevo, la Germania contro una delle grandi rivoluzioni di questo mondiale, contro la Francia, se la potrà giocare fino all'ultimo minuto? Sì. Vanno ai cacci di rigori? Non saprei dirle. Io vedo una Francia molto pericolosa, una Francia molto unita, una Francia che ci crede, che in questa situazione certamente può giocare più leggera rispetto alla pronosticatissima Germania. Germania che, come ho detto, è partita, come sappiamo, alla grandissima, eccetera. Poi ha avuto fasi un po' alterne, c'è qualcosa che non funziona, una linea difensiva che non convince, e che alla quale certamente la Francia può far male molto di più dell'Algeria, che ha incontrato l'altro giorno senza brillare. È comunque una squadra, insomma, è inutile dire fortissima, tostissima, perché lo sappiamo tutti, però non mi dà quell'impressione di invulnerabilità che pensavo di poter trovare in questo mondiale tedesco. Io stesso ho pronosticato all'inizio la Germania come vincitrice, però penso che stasera sarà davvero dura per i tedeschi. Quanto all'altro quarto di finale, sarà diametralmente opposto rispetto al super derby europeo, e l'ho detto ieri, la mia sensazione è che per il Brasile potrebbe essere più semplice questa partita, ma l'ha detto anche Scolari, rispetto a quella con il Cile, perché Scolari ha detto: noi cileni, argentini, uruguayani sportivamente ci odiamo, quindi giochiamo alla morte. Con la Colombia è forte, ma è un po' più sorridente sportivamente parlando, e non solo sportivamente parlando. Allora, Bet Corner GR, poi torniamo. 800 24 00 24, numero verde. Quote e pronostici. È finalmente il giorno dei quarti di finale al mondiale brasiliano, e guardando il programma delle sfide di giornata c'è davvero da leccarsi i baffi. Dopo aver visto le streghe contro il Cile, per il Brasile padrone di casa, c'è un'altra sudamericana sulla strada che porta alla finale. Per gli uomini di Scolari c'è infatti la lanciatissima Colombia, e questa sera c'è davvero il delirio al Maracanã. Sono queste le quote SNAI per la gara delle 22. L'1, la vittoria del Brasile, è quotata 1,90, l'X è quotato 3,60, il 2 invece, con il successo dei colombiani, è quotato 4. È possibile anche indovinare il nome del primo marcatore per questa partita. Neymar è il favorito a segnare per primo ed è quotato 4,50, Fred 7, Hulk 8,50, David Luiz 18. Nella Colombia invece spicca il nome di James Rodriguez, è quotato 9, Cuadrado 12, Jackson Martinez è quotato 10. Alle 18 invece, al Castellao di Fortaleza, ecco un'altra sfida con la S maiuscola. Lo scontro questa volta è tutto europeo ed è tra Francia e Germania. L'1, la vittoria dei transalpini, è quotata 3, l'X è a 3,10, il 2 invece, con la vittoria della favorita Germania, è quotato 2,50. Questa era l'ultima delle quote di oggi, a risentirci a domani. Tutti convocati. Allora torniamo e stiamo aspettando Pardo per i pronostici. Intanto sto raccogliendo anche i vostri pronostici di questi, per questi quarti di finale. No, volevo, mentre niente, sta presentando Vidic, lo vedo parlare in questo momento. Proviamo a sentirlo, è collegata la TV? And I think I'm still going to the one of the biggest club in the world, and of course at the moment maybe club is going through transition and he's not in a position that all of us would like to be, but club definitely is going forward, and like I said, I'm happy with the project of the club and the idea they actually present me of the club, of the future of the club, and I was sure it's right moment for me to change the country. Sono solite parole di circostanza, sono uno dei club più prestigiosi del mondo, siamo andati bene nelle ultime stagioni, sono grandi progetti di rivincita, eccetera eccetera. Tra l'altro c'è anche questa idea, non so se sia ancora attuale, se sia davvero radicata, cioè l'idea di affidare a Vidic, cioè l'ultimo arrivato, la fascia di capitano dell'Inter. Potrebbe essere un'idea di dopo Zanetti, vabbè, qualunque scelta insomma potrebbe essere pesante o schiacciare chi verrà. Penso che in ordine di anzianità la fascia dovrebbe toccare a Ranocchia se rimarrà all'Inter, però l'idea di darla a Vidic, scelta di totale rottura con il passato, potrebbe non essere male, tanto più che è un giocatore di grande carisma. No, volevo leggervi mentre Franco da Milano, certamente Franco da Milano mi scrive un SMS, mi invita a fare un saluto e una prece naturalmente a Giorgio Faletti, uomo poliedrico di grande cultura nonché tifoso, nonché grande amico di Radio 24 e qualche volta frequentatore pure di questi programmi sportivi, e certamente un saluto e una preghiera per Giorgio Faletti. Però voglio leggervi questa agenzia, perché se c'è uno che la FIFA non vuole e non ha mai voluto è Diego Maradona, e starebbe, la FIFA stessa starebbe tentando in tutte le maniere di bloccare l'accesso di Maradona agli spazi riservati agli invitati d'onore negli stadi brasiliani. Non lo vogliono vedere neanche dipinto. Eccolo qua, Pierluigi Parro. Ciao Pier. Pierluigi. Eccolo. Pronto? Come stai? Eccoci, come va? Benissimo, e tu? Tu? Molto bene, ti stavo aspettando, Per ritornare. Sto per andare al Maracanã, Stai per andare al Maracanã. Al Maracanã. Ecco. Al Maracanã. Dove stasera vincerà? La vita. E io ho già puntato 2-1 per la Francia. 2-1 per la Francia. Sì, però come ti dicevo ieri è molto disgiunto, perché al Senato ho votato per la Germania, no? Sai che c'è la cosa delle semifinaliste. Quindi al Senato ho votato per la Germania, alla Camera ho invece voto per la Francia. No, in questo momento mi sento più la Francia della Germania. Diciamo che se dovessi insomma, con pronosti convinti sulle semifinali ho fatto prima di vedere gli ottavi. Allora quindi... ascoltami un attimo, proviamo a ripristinare il collegamento, perché sennò non riesco a capire neanche il risultato, al di là del fatto del tuo voto democristiano, uno al Senato e uno alla Camera, che mi sembra la soluzione più corretta. Adesso proviamo a ripristinare il collegamento con il Maracanã e con Pierluigi Pardo. Intanto parliamo con Riccardo, provincia di Pavia. 800 24 00 24, vuole fare un pronostico anche lei? Sì, buongiorno. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione e grazie per essere stato convocato. Grazie a lei. Io volevo fare il mio pronostico e purtroppo vince il Brasile, perché ma sì, il mondo funziona così. I loro attaccanti sono molto scivolosi. Sono molto scivolosi. Sì, molto scivolosi. Fred, Neymar. Per scivolosi intende che sono molto difficili da contenere o che hanno la cascata facile? La cascata facile, sicuramente sarà così. Allora il mio pronostico sarà un 2-1 per il Brasile. Con molto dolore, da quando è iniziato il mondiale io ho detto sarò contento se Colombia gioca la quinta partita, e adesso oggi la stiamo giocando. È colombiano, quindi lei. Sì, io sono colombiano, è una emozione molto grande perché fin qua non eravamo mai arrivati. Tra l'altro non so se sicuramente voi sapete che sono 85 anni che aspettiamo vincere sul Brasile. Io ho 46 anni e ho aspettato sempre. Ogni volta dico oggi è la volta buona. Invece non lo so, ancora forse oggi sarebbe anche quella storica, voglio dire. Quella buona e quella storica. Un'attesa così lunga, quale momento migliore per vincere con il Brasile nel suo mondiale e in casa sua? Meglio di così, sarebbe festa totale, Riccardo. C'è Pardo? Sì. C'è? Sì. Sì. Adesso forse meglio. Forse un po' meglio, Pier. No, dicevamo, visto che stavamo parlando con un ascoltatore di colombiano che dice Brasile attaccanti troppo scivolosi, ha detto, nel senso che hanno il tuffo facile, nel senso che pensa che al Brasile una manina gliela daranno ancora, eccetera, eccetera, eccetera. Quella partita lì come l'hai inquadrata, come l'hai pronosticata? Guarda, devo ancora fare il pronostico e tatticamente aspetterò di vedere come si orientano quelli dell'alta classifica come me. Scusa, se me la tiro, eh. Perché c'è anche... Io penso che vincerà il Brasile. Sì. Penso che vincerà il Brasile, in qualche modo. È chiaro che fin qui non è stato brillante, però insomma diciamo che la sensazione è quella, non penso all'aiutino, anche perché a essere onesti nella partita contro Cile su un episodio chiave come quello di gol annullato a Hulk ci stava la decisione di Webb, ma non so quanti altri arbitri avrebbero avuto il coraggio di prendere quella decisione lì, quindi questo va detto e va riconosciuto, però insomma io penso che alla fine in termini di esperienza, di spinta, di pubblico, di inerzia della partita, poi alla fine il Brasile potrà farcela, però non è che ho molte certezze, se devo giudicare quello che ho visto fin qui nel mondiale mi è piaciuta infinitamente più la Colombia, sì, non c'è nessun dubbio, ecco. Sì. Franco Pordenone, buongiorno. Salve signor Genta, io sono un ascoltatore assiduo della sua bellissima trasmissione e le faccio i complimenti anche ai suoi ospiti. Una considerazione e poi una riflessione sui recenti mondiali. Ha ascoltato le dichiarazioni del signor Montolivo che in poche parole diceva che lui boicottava il suo allenatore Seedorf e poi alla reazione della manager di Seedorf il Milan si è lavato le mani, insomma, in poche parole gli dice il portone, non so, mica no, lei. No, allora, boicottava mi sembra un parolone, non mi pare nemmeno che Montolivo abbia detto delle cose inedite, ma cose che più o meno conoscevamo tutti, e il Milan difende la sua scelta che è stata quella di licenziare Seedorf, ma non mi pare sia stato aggiunto niente di nuovo in questo quadro. Pierluigi? Pronto, prova. Io faccio una fatica dannata invece a sentirti oggi. Le onde magnetiche del Maracanã si stanno impossessando del tuo telefono. Vabbè, niente, ci riproveremo. Quanto alla storia del Milan, c'era anche una presa di posizione che adesso vi vado a pescare se ci riesco. Comunque la situazione lì mi sembra molto chiara, no? Seedorf è stato scaricato dalla gran parte dei giocatori e stiamo cominciando a vedere qualche reazione di Seedorf, ma in questo caso mi pare che il bello debba ancora venire. Pierluigi? Eccoci, adesso cerco di capire quanto tempo farà scegliere a Maracanã, quanto tempo? 30 minuti, sicuro? E ora vamos, andiamo, al Maracanã ho preso il taxi perché chiaramente la metro sarebbe stata drammatica per la radio, e, sapete, io ho una certa qualità del suono, il Dolby Surround, no? Non posso, ecco. No, prima, pazzesco, prima ho parlato facciamo un'intervista all'amico, come si chiama? Il nome? Chaves. Chaves, sconfiante para o jogo de hoje. ottimista della partita di oggi. Mi sono con Brasil, calcio il Brasil, cara Nels. Mas 3-1 Brasil. 3-1 3-1 Brasile. Grande prezzo della scaramanzia da parte del nostro amico Battista, che se fa le previsioni sulla mezz'ora per arrivare al Maracanã con lo stesso, diciamo, lo stesso criterio del risultato del Brasile, mi sei rovinato. Te la vedi in TV. Senti, stavamo prima parlando di Prandelli, ne abbiamo parlato con Franco Ordine. La sensazione è che, beh, abbiamo scoperto che il mondiale l'ha perso Berlusconi perché aveva già venduto Balotelli all'Arsenal per 35 milioni e invece adesso ciccia perché quelli non gli danno più naturalmente. Ma poi c'è stata una parziale retromarcia, pare fosse una delle classiche battute presidenziali. L'ha vinto invece Cesare Prandelli, che in 10 giorni si è visto stipendio raddoppiato, è rimasto a spasso praticamente mai. Galatasaray, che non è la nazionale italiana, ma è comunque una squadra simbolo di un paese, non gli dice neanche malissimo al nostro CT. No, gli dice bene, grazie, sono i maliziosi che hanno pensato che direttamente queste dimissioni erano un po' meno nobili di quello che abbiamo pensato a caldo. Io, siccome invece sono un'anima candida da questo punto di vista e non mi piace la dietrologia, penso che le dimissioni siano state comunque dimissioni. Poi, insomma, è difficile pensare che in 9 giorni sia nata completamente la trattativa, però non credo neanche che Prandelli avesse il contratto 9 giorni fa. Non penso che nei 5 minuti intercorsi tra la fine della partita e l'inizio della conferenza stampa nella quale ha annunciato le dimissioni abbia trovato il tempo per sentire i dirigenti anche la Sarai dicendo adesso arrivo. Sì. Quindi io penso che sai cos'è, non avrebbe, no, ci fosse stata seriamente metti una parola prima, Prandelli non avrebbe firmato quel contratto prima di salire sulla scaletta. Questo mi sembra abbastanza pacifico, no? Quindi da questo punto di vista possiamo essere maliziosi finché vogliamo, ma non è che uno firma contratto e 10 minuti dopo si mette d'accordo con quegli altri. Vabbè che ne abbiamo viste tante, però questa mi sembra eccessiva. Certamente ci sarà stata un pur parlé tra Prandelli e Galatasaray prima, gli avranno detto guarda che a noi interesseresti, lui gli avrà risposto ma interpreto liberamente, vado avanti a fare cittadinanza nazionale italiana, poi vediamo. Raffaele, provincia di Napoli, buongiorno. Buongiorno, la ringrazio per avermi convocato. Innanzitutto l'ho vista poche settimane fa in televisione, era lei sotto la trasmissione su 7 gol, Flamboli. Sì, l'ho vista, no, la immaginavo in maniera diversa, perché l'ho visto tante volte così. No, niente, volevo sapere, innanzitutto la stimo moltissimo per i commenti pagati nella trasmissione, come ad esempio non sopporto quell'Adriano Bacconi, quello lì, sì, che vabbè, guarda, non mi metti in difficoltà, dica. Non lo sopporto, è antipatico, come che mi ricorda, se ricorda Ezio Cesare, e vi ricordo così, come mi è antipatico Ezio Cesare, così questo non lo porto tutta sentenza. Comunque volevo sapere due cose, innanzitutto chi è questo Rabiot che sembra che abbia la Roma abbia soffiato la Juventus, e poi volevo sapere, secondo me stasera alla fine con molta difficoltà passeranno Germania e Brasile, con molta difficoltà. Poi se vuole una battuta in dialetto napoletano, una bella ricorda per l'estero, potresti che ogni riferimento è puramente casuale. Sapete che sto fanno due colucci troppo a destra e sull'uso, tre a una mano e uno sull'altra, la traduco in italiano per tutti, sì. Gli altri, sa cosa fanno due colucci sulla testa di un calvo? Ti danno la mano per non scivolare. Grazie Raffaele, grazie. Su il giocatore della Roma, un giovane molto interessante, ma non credo che sia ancora matura la storia. Quanto al pronostico, penso anch'io così, ma penso siamo tutti d'accordo, saranno comunque partite molto equilibrate. Torno a ripetere, più passa il tempo, più penso che la Germania qualche problemino con la Francia ce l'avrà. Quindi mi viene voglia di condividere il pronostico del mio amico Pardo, che tanto è un califfo della materia, e quindi mi posso pure arrendere. Ti stai affidando a uno dei primi in classifica acquistati. Sì, vabbè, ho capito. Insomma. No, pensa che prima volevo. C'è di la Cruciani, ho detto dai, vieni dentro. Ho detto no, guarda, adesso non posso da fare, secondo me ha paura di te. Posso dire? Eh. Bruno, Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno, ciao a tutti. Ciao. Dicevo una cosa, sono d'accordo con quello che diceva Pardo ieri, questi mondiali non li abbiamo proprio giocati, è quello che fa incazzare. Ma la nostra, le nostre nazionali sono quasi state quasi tutte così, con un mio vecchio motorino, se riuscivi a farlo partire ti portava in capo al mondo, altrimenti lo riportavi in garage perché non partiva. Stavolta, i 4 anni fa, l'abbiamo riportato in garage. Sì, sì, il parallelo ci sta, ma credo sia l'immagine sia condivisibile anche per Pardo, no? Il vecchio motorino che se parte ti porta da tutte le parti, se un parte c'è niente da fare, inutile star lì a menarla. Sì, che questa volta è stato strano perché il motorino era pure partito bene, insomma, nel senso che comunque ci eravamo illusi, la prima partita non era un dettaglio, insomma, poi abbiamo visto in Inghilterra era qualche cosa, però comunque ci metteva in una situazione oggettivamente eccezionale per passare il turno, quindi poi siamo stati veramente molto molto bravi insieme a Brasile nella terza partita, perché uscire con una battuta in Inghilterra era veramente complicato, noi ci siamo riusciti, ma insomma sì, non posso fare altro che riprendere quello che ho detto ieri, il rodimento rimane, passano i giorni, ma il rodimento rimane, anche perché veramente è un bel mondiale, è un mondiale dove stiamo vedendo belle cose, dove stiamo vedendo una qualità di gioco eccezionale, stiamo vedendo squadre che attaccano e noi non l'abbiamo fatto, noi non abbiamo avuto né le gambe, né la testa, né la voglia per farlo, ed è un peccato, tornando al discorso di Prandelli, perché poi alla fine ti ricordi, Prandelli verrà ricordato per questo, sì. E noi stiamo parlando di commissario tecnico che per 3 anni ha fatto benissimo, sì, Prandelli sono stati eccezionali, mancava solo la vittoria nella finale europea, ma nella finale europea nella quale nessuno all'inizio pensava di poter arrivare. Senti, ha fatto un lavoro eccezionale, l'ultimo anno si è incartato. Dai. Posso chiederti un'altra cosa? Le grandi inchieste di Pierluigi Pardo, la casa di Beckham nella favela. So che hai fatto, hai assunto informazioni approfondite. Comprato una villa nella favela o no? Non lo so, io guarda, dopo che ho fatto il servizio che preso da oggi, forse anche sul sito Stormegger, non lo so. Penso che ci ho capito meno di prima, penso che per me è una grande butad, una grande butad, se vuole dire anche una grande butanad. Secondo me era una cosa che si sparsa e da lì ci hanno fatto un po' di anche soldi, perché non è che ci serve il chandise, però insomma però è una sono in tanti che ci credono, che ci credono e tanti che se la indicano, poi ti ha risposto una signora, si è passata una signora inglese al cancello della presunta casa di Beckham, ha detto no, la casa è da un'altra parte, insomma, non è che Beckham avrà 57 case nel mondo, quindi è una possibilità di trovarlo eventualmente lì. Quando non sai cosa fare, gli appioppi una casa e i prezzi di quelli dei vicini crescono, facciamo così, Mi regala un gran posto, devo dire la verità, perché è una favela, ma è una favela ormai a parte pacificata, è una favela dove è tutta una vista incantevole, perché sul Morro e lo Firmaus, quindi è alla fine di Leblon, di Ipanema, fra Ipanema e Barra praticamente, e tra l'altro il vero paradosso è che ha subito sotto uno degli alberghi più lussuosi di Rio de Janeiro, che è lo Sheraton, e ti dico che la cosa impressionante di questo paese è sempre la stessa. Oggi sulla prima pagina dei giornali c'è la tragedia del viadotto che è crollato ieri, il ponte che è crollato a Belo Horizonte, 2 morti che si sono feriti, era una delle opere infrastrutturali fatte per il mondiale, e siamo sempre lì. Gira, da un lato e lo spallone, la miseria dall'altro, la ricchezza, la povertà, in pochi posti al mondo noi giustamente ci lamentiamo e ci mancherebbe altro delle condizioni del nostro paese sicuramente. Ecco, qui la mia percezione è che la miseria sia miseria vera, profonda, insomma, sì, miseria nera, e non che l'Italia non ci sia, per carità, no, altra cosa, dobbiamo darci la mano tutti per uscirne, però insomma fa veramente delle cose per gente che sta continuamente con le mani nei cassonetti, ma anche in pieno centro, insomma. È brutto, e poi invece sono le cose di un lusso, di uno sparso, di una magnificenza incredibile. Beh, ma con un'espressione strabusata, il paese delle grandi contraddizioni. Senti Pierluigi, io ti saluterei perché faccio veramente fatica a sentirti così, anche i nostri ascoltatori. Sì. Come l'altro giorno, ti faccio un saluto anticipato, poi se riusciamo a reintercettarci in maniera migliore, dopo la borsa ci andiamo a riprovare. tanto ti comincio a salutarti e poi spero di ripigliarti dopo. Donato da Milano? Donato da Milano? Ciao gente, mi senti? Sì, almeno a te ti sento. Grazie per la convocazione, io porto il 40 sulle spalle. A proposito di quarantenni per la Federcalcio, sì. Direi che sia i quarantenni ma sia i contenuti. Ah beh, questo sì, cioè non è che se no vale lo stesso discorso che facevo per i giocatori, sono giovani, esatto. Devono giocare, no, piano un attimo, un attimo. E altrimenti non servono, quindi sia i quarantenni sia la Serie A 16 squadre, una Serie A 20 non serve a niente. E poi giovani devono giocare se hanno voglia, se hanno tempo, e se no che vadano. No, ma vale, ripetiamo quanto detto, che giochino pure, facciamo giocare tutti quanti, però a patto che siano bravi, perché alla fine non stiamo parlando del torneo parrocchiale, stiamo parlando di sport al massimo livello professionistico possibile, quindi di un, è brutto chiamarlo prodotto, ma tale è, di un valore, di un... insomma, di qualcosa che vale anche dal punto di vista commerciale, televisivo, eccetera, eccetera. Quindi che giochino i giocatori forti. Tutti convocati. Agora vamos? Vamos, vamos embora. Vamos. Ok, andiamo. Andiamo, terremoto. E quindi è arrivato il momento di andare, prendiamo il casco e saliamo a bordo del mototaxi per andare a scoprire la casa di Beckham. Sarà vero, vediamo. Pulo, pulo, pulo, e non caio. Pulo, pulo, pulo, e non caio. Io caio dentro do balaio, sorriso meu amor. Pulo, pulo, pulo, e non caio. Pulo, pulo, pulo, e se eu caio, eu caio. Guarda che comprò questa abitação. No, questa è casa nostra e non la vendiamo. Ok, buongiorno, molto obrigado. Ok, dai. Improvvisamente si affaccia dal balcone una signora inglese e ci dice che Beckham ha sì comprato casa, ma che è un'altra, dall'altra parte della collina, e c'è anche chi non le crede. Credo che sia vero, però non lo possono dire, altrimenti avrebbero le telecamere qua sotto tutto il giorno. E allora risaliamo la rua principale, fino in cima alla collina. Strade strette, caos, bandiere del Brasile ovunque. Una povertà composta e il panorama che ci aspetta in cima è mozzafiato. Insomma, verrebbe da dire: David, tu che puoi, se ancora non l'hai fatto, compra, Vidigal ti aspetta. L'abbiamo, mi fa notare Franco Biadanello, giustamente, l'abbiamo sentito malissimo per mezz'ora dal punto di vista della qualità del suono. Vi abbiamo fatto sentire in maniera pulita finalmente la voce di Pardo e la sua straordinaria inchiesta verità sulla casa di David Beckham, presunta. Tanto la Formula 1, dopo 22 anni di attesa, ha trovato questa mattina una donna al volante. Durata poco però l'esperienza di Susie Wolf, che si è messa al volante della Williams, elegantissima, il suo logo Martini, alle 10.19, partita alle 10.19, queste prove libere sul circuito di Silverstone, il cronometro andava prima in classifica nelle prove libere, poi è finito tutto, la macchina si è rotta, l'occasione è finita, il miglior tempo è diventato il peggiore e nelle libere del pomeriggio al volante è tornato Bottas, cioè il legittimo titolare di quella macchina. Alessandro da Bologna, buongiorno. 800 24 00 24, numero verde, dite. Buongiorno. Buongiorno Genta, buongiorno Pardo, grazie di essere stato convocato. Doppietta da Bologna, già, dico subito doppietta da Bologna, prima Alessandro e poi Beppe. Dica. Ho una teoria che mi sono fatto anche a pelle, che il mondiale nostro italiano è stato perso di tono quando il Cesarone nazionale ha deciso di rivoluzionare la squadra rispetto a quello che ha vinto con l'Inghilterra, anche perché era già difficile farli stare tutti insieme quando i vecchi baroni hanno visto che i giovanotti giocavano un po' bene. Si vede che a livello di spogliatoio hanno avanzato delle richieste a Prandelli, che non è stato capace di di respingere, e lì si è persa quel minimo di energia che c'era, si era ritrovata. Quindi, quindi Alessandro, per dirla chiaramente, il ritorno di Buffon è stato un errore, no, perché la squadra che ha battuto l'Inghilterra era da rivedere, perché Chiellini che era un po' fuori posto, sì, era anche fuori zona, fuori forma. Chiellini era proprio fuori, no, era fuori. Sì, però sì, voglio dire, Immobile no, l'altro no, c'era con l'Inghilterra un minimo si era visto, un minimo. Dopo è stato proprio un calo di tensione psicofisica, e questo probabilmente è stato dato, io parere personale, da quello che Prandelli non è riuscito ad arginare, cioè una richiesta dei baroni di entrare in prima linea. Chiedo al suo concittadino Beppe se la pensa anche lui così. Beppe? Sì, pronto? È della stessa idea di Alessandro, visto che state chiamando dalla stessa città? Stessa città, stessa idea, no? Ho un'altra teoria, la mia. Vediamo, sentiamo. Allora, dico una cosa, una premessa. Sono un calciatore, 59 anni. Sono forse in questo momento il più vecchio, no, però è quello più che ha giocato più in maniera più continua, perché quest'anno festeggio i 50 anni col calcio, gioco ancora negli over 35, sono molto amico con Lamberto Boranga, che detiene il record assoluto, perché Lamberto ha 71 anni, giochiamo insieme spesso con il Bologna Recche Gore. Ma dove ha giocato? Io ho giocato fino in promozione, in prima categoria eccetera, però adesso gioco così, ad esempio gioco contro uno che conoscete bene, Marco Vallotta, che gioca centravanti in una squadra qua in Valsamoggia, che è la nostra zona. Quindi la sua idea è diversa da quella del suo concittadino? Sì, io ho stabilito questo, intanto per i superstiziosi, due osservazioni, io vado controcorrente, cose che non avete mai detto, quindi è il mio modo di fare, controcorrente abbiamo che la nazionale italiana nell'82 e esattamente nel 2006 aveva come centravanti della Fiorentina. La fotografia della finale con Ciccio Graziani, che si è infortunato dopo 15 minuti, e l'altra abbiamo Toni e Gilardino. Prandelli probabilmente è andato subito anche contro la cabala, passando a Casarossi, si è messo contro la cabala. Ma magari non si ricordava più, non si ricordava, ma c'è andato contro. L'altro invece, dato che il mio lavoro è lavorare nei numeri, e ve lo esprimo perché anche questo non l'ho mai sentito, poi se c'è qualcuno lì farà i suoi conti. Io ho fatto un ragionamento molto semplice. Ho preso l'Italia dell'82 nelle quattro punte, che vado a ricordare, Antonioni, Graziani, Rossi e direi Conti. Hanno fatto 340 gol prima di giocare i mondiali, avevano 340 gol prima di entrare in campo con i mondiali. L'Italia del 2006, che riconoscete in Del Piero, Totti, Toni e Gilardino, avevano 454 gol prima di entrare in campo, contati su Wikipedia. La nazionale che ha giocato al netto dei gol fatti in Serie B quest'anno aveva 136 gol, controllare. Allora, può voler dire qualcosa questo? Può voler dire la colpa l'ha presa l'attacco, perché dice che la difesa ha preso pochi gol. Può voler dire il fatto che la carriera, perché la carriera di questi non è ancora, insomma, che è stata più breve fino a questo punto rispetto ai giocatori che lei ha citato, che erano giocatori più di maggiore esperienza, con più anni e più calcio alle spalle. Secondo me vuol dire grosso modo questo. Secondo me. Poi magari mi sbaglio io. A proposito del Bologna, mi segnala Franco Piantaneda, ieri ha parlato il presidente Guaraldi, ora lui, la presentazione di Diego Lopez, allenatore. I tifosi sono l'unica parte sana di una città alla deriva, mentre voi, ha detto rivolto ai giornalisti, avete come obiettivo non il bene del Bologna ma il fallimento. Volete farmi passare per coglione? Tanto se vi do le notizie sono un bel presidente, altrimenti vado eliminato. Ma eliminando me muore il Bologna Calcio, è un gioco al massacro, potevo fare altre scelte e scegliere figure professionali diverse, ma di certo nessuno potrà mai accusarmi di dare manate. 200 milioni li avrò spesi male, ma di certo non me li sono messi in tasca io. Questo ha detto il presidente del Bologna, Guaraldi. Maurizio D'Ancona invece che dice? Salve, volevo dire una mia opinione su Prandelli, che è andato al Galatasaray. Sì. Secondo me era una cosa già tutta programmata. Il rinnovo del contratto, secondo me, è per far stare tranquilla la squadra. perché cioè, dopo una settimana che uno va via dalla nazionale, trova un contratto da 4 milioni e mezzo con un'altra società, mi sembra un po'... cioè, secondo me Prandelli o vinceva il mondiale oppure ha fatto la figura che ha fatto, secondo me è come si dimetteva dall'Italia. Questa può essere, sì, no, certo, è una sua opinione ed è tutto interessante. Io non credo però che insomma si poteva andare trovare il modo per evitare quella firma sul contratto senza poi doverlo stracciare con tutta la manfrina che c'è stata dietro. Ripeto, io non credo fosse così. Ma anche perché non penso che Prandelli sia un tipo così, ecco, firma un contratto tanto per, sapendo che in ogni che comunque vince il mondiale o lo straccia in ogni caso. Non credo che ci sia questo dietro alla vicenda di Prandelli. Intanto, a proposito di Citino, sto seguendo con grandissima attenzione e curiosità la vicenda di un altro CT sulla Graticola, ancora in sella naturalmente, quella di Fabio Capello. Allora, la saga di Fabio Capello, come sapete, convocato al Parlamento russo. Ieri ho letto poi un'agenzia, insomma è in discussione l'operato di Capello, sono arrabbiati neri i russi che gli danno un sacco di soldi, 8-9 milioni di euro l'anno, e adesso andrà in Parlamento a spiegare la ragione del fallimento e a spiegare in maniera dettagliata il programma che ha in mente per portare la Russia ai mondiali, ai suoi mondiali del 2018 in condizioni diverse. Ieri ho letto però che insomma se quelli decidessero di stracciare il contratto di Don Fabio, sapete a quanto ammonta la clausola rescissoria? Sapete quanto ammonta la penale nel caso in cui dovessero dire vabbè Capello ci hai rotto, via? Sapete? Una trentina di milioni di euro, perché Capello è uno che i suoi conti li sa fare perfettamente. Convocati. Faire du Nord, Paris, Roubaix, Tour de France, Tour de France, la Côte d'Azur et Saint-Tropez, Tour de France, Tour de France, les Alpes et les Pyrénées, Tour de France, Tour de France, dernière étape Champs-Élysées, Tour de France, Tour de France. Chris Froome, la maglia gialla. Da trionfatore, davvero, da trionfatore ai 1912 metri del Mont Ventoux, sul gigante della Provenza, il mostro per il suo rendimento, eccolo qua, è questo ragazzo nato in Kenya, britannico, che va a vincere sulla Mont Ventoux, oggi veramente da padrone, e oggi soprattutto, Davide, per come ha vinto, possiamo dire che ha impressionato, ha letteralmente impressionato Chris Froome. Pier Augusto Stagi, ripartiamo da qui, cioè da Froome che fa quello che fa sul Mont Ventoux, che vince come vince il Tour de France, si riparte da qui. E si riparte da Leeds, non da lì, ma esatto. Da Leeds. Esatto, si riparte da Leeds. Tutto è pronto. Tutto è pronto. Com'è il tempo a quelle parti? Piove, diluvia? Bruttissimo. Strano, sì. E tira vento. Inquadrami questo tour. Inquadrami questo tour, Pierluigi. Pier Augusto, io tra i Pier ormai faccio una confusione, sì, totale, sono confusissimo Pier. Anch'io. Dimmi. Sì. Ma intanto le condizioni ambientali e meteorologiche saranno estremamente importanti in questi primi tre giorni inglesi, quindi domani intanto non ci sarà il cronoprologo come spesso accade nei grandi giri, invece ci sarà una tappa in linea di 190 km da Leeds a Harrogate, e quindi la prima maglia gialla al 99,9% sarà sulle spalle di un velocista. Bisogna solo capire chi. È logico che i britannici sperano che sia Mark Cavendish a vestire il primo giallo, ma non la pensano così, per dire, Marcel Kittel, non la pensa così Peter Sagan, non la pensa così, speriamo, anche il nostro Sascha Modolo o Matteo Trentin, per citare un altro ragazzo di casa piuttosto veloce, o l'anziano, perché ha 40 anni abbondanti, Alessandro Petacchi. E poi dopodomani ci sarà una tappa che è una piccola 10 baston liegi, 201 km senza un metro di pianura, tutto su e giù, che sarà veramente, i corridori non dovranno sottovalutarla, perché tra l'altro si svolgerà, si snoderà su delle strade molto strette e battute soprattutto dal vento, e questa sarà la differenza. Non meravigliamoci, anticipiamo, lo ricordiamo, cadute, ci saranno per le gomme troppo gonfie, ci saranno perché c'è grande tensione, c'è grande agonismo, perché si cade, perché negli anni 80 al Giro d'Italia, al Tour de France partivano in 120, adesso partono in 198, sì. E 198 sono un bel numero, e quindi è normale, quindi anche lì bisogna stare attenti, e la via bendata deve vedere bene, nel senso, speriamo che non vada a... Sì, è forse crudele, ma è fisiologico, Pierluigi, è un discorso che abbiamo fatto molte volte anche all'ultimo Giro d'Italia, dove di cadute ce ne sono state molte, però ripeto, non puoi andare a dire a questi di tirare il freno, perché questo sarebbe, insomma, innaturale. Fa parte del gioco, è esattamente così, hai ragione, fa parte del gioco. Il grande, perché le corse a tappe hanno questo fascino, perché sono anche crudele e cruente, c'entra dentro tutto, devi essere forte, fortunato, astuto, agile, avere un fisico che è in grado di sopportare gli sbalzi di temperatura, perché in 3 settimane passeranno dalla giornata come quella di oggi, dove sono a 15 gradi, poi tra 5 giorni saranno in Francia, probabilmente saranno a 35, e poi andranno sulle Alpi e scenderanno a 4-5 gradi, poi andranno sui Pirenei, dove invece ci sarà un tasso di umidità pazzesco, come al solito, altro che Manaus. Ascolta, non hanno la casetta qui. hanno portato dei frigor, perché da anni al Tour de France portano invece delle casette col ghiaccio, i corridori prendono i corridori e li mettono in frigorifero, è così? Bravissimo, esattamente il contrario di quello che hanno fatto Prandelli e lo staff di Prandelli ai mondiali, li pigliano e li mettono in frigo. Molto bene. Certo, perché il fisico deve recuperare. Sì, è chiaro. Li abituo e li abituo ai 35-38 gradi. Ascolta, dimmi una parola. Dimmi una parola. Tanto in questi giorni, naturalmente, ci sentiremo moltissimo con Piero Augusto Staggi, che seguirà per noi. Sì, sei praticamente la mia fidanzata. Di Pardo. Penso un po' come sono messo. No, volevo una parola invece su, prima parlavo di Capello e quindi di russi che danno tanti soldi ad alcuni italiani, però poi chiedono il conto. Capello, sappiamo la vicenda. Nibali è una vicenda che è uscita qualche tempo fa, quando, ti ricordi, la Stana mandò una lettera di richiamo. Certo, com'è adesso la storia con Nibali? Come sta? Come lo vedi? Cosa può fare? No, sta bene, intanto quella storia della lettera è vera, ma non è stata mandata a Nibali, perché Nibali il suo obiettivo è quello di adesso, dovrebbero mandarlo alla fine del tour o durante il tour se andrà piano. È stata mandata una lettera di richiamo a tutta la squadra, a tutto lo staff, perché ad aprile i risultati latitavano, e quindi è stata mandata anche a Nibali. In realtà adesso Vincenzo sta bene, è pronto per lottare per una posizione di grande prestigio, perlomeno sul podio al Tour de France, ci andrà con una maglia tricolore che non è tantissimo tricolore, ma non si può pretendere la luna, ricordiamoci che comunque la squadra di Stato del Kazakistan, addirittura per fare spazio alla bandiera tricolore che splenderà sul suo petto su fondo azzurro, perché è il colore del Kazakistan, è stato tolto uno sponsor che ha Astana, che è la compagnia di bandiera, quindi non è che si può, non so se noi saremmo altrettanto generosi. Sì. Io credo che oggi con la maglia tricolore sarebbe bella tutta tricolore, però è anche vero che l'Astana e il Kazakistan sta investendo da anni sul ciclismo italiano. C'ha 10 corridori italiani più parte dello staff, quindi questo è il segno più tangibile, sì, certo, che per i kazaki l'Italia è grande. Grazie Pier Stagi, Pier Augusto, grazie. Pier Luigi, ormai sono in totale confusione. Allora, sentiamo naturalmente per il Tour de France che parte oggi e che, come da tradizione, seguiremo in tutti i convocati, nei giornali radio. Vi ricordo gli appuntamenti del weekend: domani c'è Capuano dalle 17 alle 18, domenica c'è Capuano dalle 17 alle 19. 800 24 0024, prenotatevi da ora. Intanto il migliore in campo di questo venerdì è stato Bruno Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno, ciao a tutti. Ciao. Dicevo una cosa, sono d'accordo con quello che diceva Pardo ieri, questi mondiali non li abbiamo proprio giocati, è quello che fa incazzare. Ma la nostra, le nostre nazionali sono quasi state quasi tutte così, con un mio vecchio motorino, se riuscivi a farlo partire ti portava in capo al mondo, altrimenti lo riportavi in garage perché non partiva. Stavolta e 4 anni fa l'abbiamo riportato in garage. Questa è bella però, questa è bella. Inviamo la maglietta di tutti i convocati con grande piacere al nostro ascoltatore bresciano. Intanto adesso vi saluto, ringrazio Franco Piantini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, che ha curato anche il recap, il meglio della settimana di tutti i convocati. Ciao! Flavio Portaluppi, GM di Milano, il GM che ha portato il titolo a Milano dopo 18 anni. Ciao Flavio. Ciao a tutti e buongiorno agli ascoltatori. Secondo me noi abbiamo giocato una pallacanestro strepitosa. Siamo arrivati un po' corti ai playoff, abbiamo fatto molta fatica, abbiamo fatto fatica fino al primo turno contro Pistoia. Devo fare dei grandi complimenti a Siena, a Marco Cresti. Rivendico il fatto però che non abbiamo rubato nulla, nonostante quello che su alcuni siti web si è visto. Emiliano Mondonico, non dirmi che sei d'accordo con Mourinho. Bisogna per forza essere d'accordo con Mourinho, perché altrimenti non sai più con chi essere d'accordo. È chiaro che il CT che arriverà ha un compito difficilissimo, perché sostituire Prandelli adesso sembra facile, sembra semplice, però Prandelli ha fatto un lavoro incredibile, e se ha fallito Prandelli vuol dire che i problemi sono ancora più grossi di quello che pensavamo. Sono di parte, lo dichiaro, ma per me Marco Crespi è il personaggio sportivo dell'anno. Ciao Marco. Ciao Carlo. Al di là di parlare dei difetti di Milano, sicuramente, essendo la squadra assolutamente con meno talento, più debole, con un numero di giocatori minore della rotazione, dovevamo fare qualcosa per mettere in difficoltà Milano, che fosse tecnico, che fosse mentale, e penso che essere arrivati a un tiro dallo scudetto sia, anche da un punto di vista tattico, un'impresa meravigliosa. Mi piacerebbe ogni giorno rivedere le partite della mia squadra, perché penso che possa essere qualcosa da trasmettere. Concludo ricordandovi che la nostra trasmissione va in onda alla stessa ora ogni settimana, lo stesso giorno, la stessa ora, la stessa rete. Bello, Tutti convocati.